I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In Val Seriana ne sono tutti convinti. Se avessero fatto una zona rossa prima, qualche vita si sarebbe risparmiata. Il dilemma di Anna Maria è lo stesso di altre centinaia di persone della Bergamasca, familiari delle troppe vittime del coronavirus, che dopo aver sperato in quei giorni tra febbraio e marzo di avere la zona rossa, ora chiedono di sapere perché invece non arrivò mai. E lo fanno con decine e decine di denunce portate in procura nel più complesso dei filoni d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza nell'area dove il contagio ha ucciso un'intera generazione. Ma dietro queste denunce, che come sapete stanno alimentando un fascicolo che porta i magistrati ad ascoltare, dopo i vertici della Regione Lombardia, anche il Premier e i suoi ministri, dietro queste denunce ci sono vite di persone, di famiglie stravolte in quei giorni più terribili dell'emergenza. Volti spariti dall'oggi al domani con le loro storie che ora riaffiorano dietro le carte bollate, insieme ai tanti interrogativi sulle ragioni che hanno trasformato la Val Seriana e la provincia di Bergamo nel suo insieme nell'area dove il virus ha ucciso di più. Sono storie di confusione, di solitudine, di incertezza dei provvedimenti. Sono storie che devono far riflettere la speranza dei familiari delle vittime riuniti nel comitato Noi Denunceremo per dare giustizia a quei morti e lasciare insegnamenti per future e temute seconde ondate. Primo filo rosso è la mala gestio del sistema sanitario, soprattutto lombardo. Questo è quello che fa da contorno a tutto quello che è stato detto. All'interno di questo c'è la mancata chiusura dell'ospedale di Alzano, la mancata istituzione della zona rossa e soprattutto la carenza di interventi dei medici di medicina di base, perché non potevano intervenire, uno, perché c'era questa delibera del 23 marzo che impediva ai medici di poter andare a visitare i pazienti che presentavano sintomi Covid, due, perché proprio loro, a prescindere dalla delibera, non avevano nemmeno mezzi di protezione, non avevano protocolli di intervento, non avevano alcun collegamento con le aziende sanitarie e territoriali, sono stati lasciati da soli. Tutto questo, diciamo, è quello che viene riversato in ogni denuncia. All'avvocato Consuelo Locati arrivano a decine ogni giorno le testimonianze di persone che vogliono condividere le loro storie dei giorni della grande emergenza nel Bergamasco per trasformarle in denunce per i magistrati. Storie di distacchi e sensi di colpa anche, storie di lutti come quello di Anna Maria Cortesi, che ha perso il padre e ha visto il marito andare via con l'ambulanza per un contagio avvenuto forse all'interno dell'ospedale di Alzano Lombardo, dove il virus girava ben prima che fosse individuato nel primo caso e dove il pronto soccorso rimase chiuso solo 2 ore. E anche questo è un filone d'inchiesta. Sì, ho perso mio padre in contemporanea, avevo mio marito in ospedale. Con mio padre è stata una cosa velocissima, nel senso che non c'è stato quasi il tempo di rendersi conto. Io avevo mio marito a casa malato, nel frattempo andavo da mio padre malato, non sapevamo ancora di coronavirus. Lui era stato a fare un esame in ospedale ad Alzano, un esame di controllo. Dopo una settimana si era malato, non stavo bene nemmeno io, però andavo da mio padre, 88 anni, stava benissimo. Quindi ho anche questo senso di colpa, nel senso penso di aver portato io a casa la malattia. Lui stava bene, andava in bicicletta, avrebbe voluto andare a caccia nonostante noi lo tenessimo sotto controllo. Quindi una persona che stava bene, e appunto dicevo, una settimana dopo che era iniziata la malattia di mio marito, si è ammalato mio padre. L'ospedale di Alzano Lombardo, che è uno degli ospedali su cui, diciamo, adesso ci si sofferma anche per la gestione, diciamo, della gestione del pronto soccorso. Sì, infatti noi abbiamo realizzato dopo, quando poi mio marito era in ospedale, ho realizzato che lui era andato ad Alzano il 18 febbraio. E quindi da lì ho cominciato a fare due conti di incubazione, eccetera, e i 7-8 giorni ci stavano e poi si è ammalato, insomma. E poi 7-8 giorni dopo, classico incubazione, si è ammalato mio padre. Cioè le cose, i conti sono tornati tutti. Proverebbe che appunto anche attraverso l'ospedale di Alzano, anche già prima, diciamo, c'erano transitati persone E ormai sembra che sia cosa abbastanza nota, almeno dalle notizie che si hanno, dalle cronache che si sono sentite, pare che altre persone ancora prima del 18 febbraio abbiano avuto problemi nell'ospedale di Alzano, in alcuni ospedali, quindi pare che... Che la malattia girasse già da prima, diciamo che fosse riconosciuto a Codogno il 21 febbraio, questo ormai sembra assolutamente chiaro, anche però appunto il tema lì è la gestione dell'ospedale. Qui Certo. è veramente esplosa la situazione. Eh sì, nella provincia di Bergamo purtroppo ci sono stati un picco così alto di vittime Sì, da... il clima qui era una cosa, adesso io non so di dove sia lei, Io ma vivo a il clima Milano, quindi anche a Milano è stata ultimo faticosa, momento. ma non quanto Bergamo. Qui da noi il clima sarà che forse, ecco, noi stavamo, alcune famiglie come la mia stavano vivendo un periodo particolarmente pesante. Io in quarantena perché avevo mio marito in ospedale. Mio padre era morto il giorno prima del ricovero di mio marito. Cioè questo susseguirsi di eventi che non ti danno il tempo di pensare, eccetera. Insomma, ti trovi lì, sei lì e cerchi di rimanere lucido e di andare avanti e vedere il da farsi, insomma. Ecco, che cosa l'ha portata a presentare una denuncia e ad aderire poi a questo comitato Noi Denunceremo? Ho saputo così dalla pagina Facebook, dal gruppo Facebook del comitato, mi sono iscritta. Sono iscritta, ho provato a scrivere la mia storia così. Ovviamente niente di tutto questo vi potrà, ahimè, ridare i vostri cari, No, però no. in qualche modo, diciamo, anche per tutto quello che loro e che voi avete vissuto, diciamo, avete bisogno di capire che cosa non ha funzionato. Certo, che cosa non ha funzionato e guardi la cosa che io ripeto sempre, se c'è qualche responsabile, io non voglio vendetta, ma se c'è qualche responsabile, ecco, che faccia il favore di fare un altro mestiere, perché probabilmente questo non è il suo. Per me è stato il mese di marzo, è stato un mese terribile, è stato veramente un mese pesantissimo, tutto il mese di marzo. Noi siamo stati i primi, perché come l'ho detto, il 18 febbraio è entrato a fare uno sto esame il 24, così si è ammalato mio marito, il 1 marzo più o meno, 1-2 marzo si è ammalato mio padre e il 10 è morto. Suo marito era andato in ospedale per fare un esame di tutt'altro genere. Lui era andato il 18 febbraio per fare un ecodoppler. Quindi nulla che avesse a che fare con problemi No. respiratori. No, poi invece ha iniziato con questa influenza, ne ho avuto una forma anch'io. Ha iniziato con questa influenza, con febbre, che però mio marito è rimasto qui a casa 3 settimane prima che lo ricoverassero. Antibiotico, tachipirina, la solita tachipirina, poi un giorno ho chiamato il 112, erano pieni di lavoro, mi hanno detto signora se respira ed è lucido, guardi la richiamiamo noi fra qualche ora. Mi sembrava persino di aver capito male, in effetti era così, mi ha richiamato dopo qualche ora. Mio marito sembrava riprendersi un momentino, il giorno successivo avremmo avuto la radiografia, quindi abbiamo aspettato, l'ho portato in ospedale il giorno successivo per la radiografia. Nel frattempo, in quegli stessi giorni, ho avuto il problema di mio padre che è morto, aveva mio marito dalla radiografia, è risultato polmonite interstiziale da coronavirus ed è stato inviato al pronto soccorso, eccetera. E da lì l'ho rivisto quando, per fortuna, perché io sono fortunata, è stato dimesso. Il destino della famiglia di Anna Maria, ma anche dell'intera Bergamasca, si decideva proprio in quei giorni, tra fine febbraio e i primi di marzo, quando, dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno, si diagnosticarono i primi casi anche ad Alzano. E ora tutto questo è materia d'inchiesta, da un lato per la gestione dell'ospedale, dall'altra per la mancata zona rossa della Val Seriana. I numeri lo indicavano da subito. Già il 27 febbraio in provincia di Bergamo si contavano 72 contagi da Covid, 4 giorni dopo il primo caso, che portò a chiudere per sole 2 ore l'ospedale di Alzano Lombardo. Nembro, in quei giorni, è il 4° comune più colpito, Alzano l'8°. Il primario di malattie infettive dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo subito disse: «Si è sviluppato un focolaio dall'ospedale di Alzano, servono misure di contenimento». La sua denuncia cade nel vuoto. I contagi aumentano in modo esponenziale. Nelle conferenze stampa si rincorrono le domande sulla necessità di una nuova zona rossa nel bergamasco. Tutti tergiversano. Molti tra imprenditori e amministratori locali frenano sulla chiusura. I medici sono già in trincea. Il 3 marzo è il Comitato Tecnico Scientifico a proporre al governo di adottare le opportune misure restrittive per questi comuni. Il 5, il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, nel suo parere, concorda su questa scelta. La sera del 5 marzo, in zona rossa, arriva già anche l'esercito, ma l'ordine di chiudere la Val Seriana non fu mai impartito. Tra il 7 e l'8 marzo, il governo decide di chiudere invece l'intera Lombardia. Era stato mandato l'esercito in vista della delimitazione della zona rossa. I cittadini anelavano che fosse istituita questa zona. La pressione probabilmente della parte economica è stata più forte rispetto a questa tutela della salute pubblica dei cittadini. Questo è quello che le persone nelle denunce rilevano, e rilevano in maniera molto ferma e decisa. Nelle denunce raccolte dall'avvocato Consuelo Lonati c'è uno dei quesiti dell'inchiesta dei magistrati di Bergamo, che anche su questo hanno ascoltato il governatore Fontana, l'assessore Gallera, ma pure il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti, che ha confermato la loro posizione contro la zona rossa ma ha negato ogni pressione. E ora che quella prima emergenza si è allontanata, ora si ricomincia a ricomporre piano piano la storia della vera emergenza di Bergamo, che è una storia tuttora soprattutto di domande. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce. Forse lo sapremo solo col tempo cosa sia successo a certi bambini. Saranno solo i mesi, o forse anche di più, a raccontarci cosa abbiano significato per i più piccoli queste lunghissime settimane di chiusura in casa, senza scuola, senza amici, senza nonni, senza giochi all'aperto, con una casa che non per tutti è sinonimo di protezione e serenità, con una tecnologia che non sempre è portatrice solo di sani contatti virtuali. E forse solo col tempo sapremo cosa abbiano pensato quei bambini già costretti a situazioni complesse all'interno delle comunità quando sono stati anche vietati gli incontri. Lo sapremo nei prossimi mesi, quando i più piccoli rischieranno di pagare le conseguenze anche della crisi economica e sociale del paese. Nel frattempo però già sono aumentate le storie di violenze, maltrattamenti fisici o psichici, le storie di abusi o di abbandono raccontate dai minori al telefono azzurro, come ci conferma il fondatore Ernesto Caffo. Il 114 è la linea di emergenza infanzia, dove di fatto abbiamo maggiormente adolescenti, dove abbiamo rilevato molti casi in aumento rispetto alla nostra, ai nostri dati del periodo, legati a violenza, in questo caso anche violenza sessuale, a violenza intrafamiliare, a fughe di ragazzi, anche se in un contesto ovviamente particolare di lockdown, e con una grande situazione di segnalazione di violenza domestica, cui i ragazzi sono stati sono testimoni. Nella linea invece 1996, che è la linea più legata ai bambini, abbiamo notato invece che è una linea più di consulenza, quindi legata a situazioni meno emergenziali, abbiamo trovato una difficoltà dei bambini molte volte nel raccontarci la difficoltà che loro hanno nel delle mancanze che hanno percepito nell'assenza del rapporto con i coetanei per loro fondamentale, nella difficoltà molte volte del rapporto con i loro genitori e di una fatica enorme nel vivere la paura di queste immagini, di queste comunicazioni che loro d'altra parte hanno condiviso con i loro genitori. E questo è stato d'altra parte, questo dato è condiviso anche tra tutte le linee di ascolto da cui noi facciamo parte, che in questa rete si chiama Child Helpline International, e abbiamo fatto un incontro anche l'altro giorno sotto l'egida delle Nazioni Unite, in cui sono emerse in tutto il mondo le problematiche simili, cioè un aumento di richieste di aiuto e anche una maggiore gravità dei casi segnalati, come se in qualche modo la fragilità familiare in questa situazione di lockdown possa maggiormente esplodere. Certo, questo lo immaginiamo, ma quindi lei parla proprio di, diciamo, segnalazioni ricevute da voi direttamente dai minori? Sulle due linee? Certamente, sì. La nostra linea 1996 è rivolta ai minori, sì. Quindi 0-18 anni, e la linea di emergenza infanzia è anche rivolta agli adulti, però tendenzialmente anche li chiamano talvolta dei minori adolescenti. La capacità dei bambini oggi di parlare è anche di usare chat, perché noi abbiamo anche una chat aperta che è 24, che permette di raccogliere queste segnalazioni, danno senso ai bambini, soprattutto quelli che non avevano la possibilità di usare il telefono in certi contesti familiari, di mandarci dei messaggi. Devo dire, questo dava il senso anche di un bisogno di questi bambini di avere un aiuto che spesso non c'era, anche nell'assenza di servizi sociali, educativi, in grado molte volte di essere in grado di intercettare questi bisogni. Quindi, certo, anche perché in questo caso, con le scuole chiuse, con l'assenza di socialità e anche con una riduzione forte delle attività dei servizi sociali, anche appunto quelle che sono le classiche un po' sentinelle sul territorio delle situazioni più difficili, evidentemente facevano fatica ad incrociare tutto questo. Ecco, che cosa vi hanno raccontato questi bambini? Devo dire che i bambini ci hanno raccontato spesso situazioni di grandissima fatica nel vedere i loro genitori in conflitti costanti, talvolta anche situazioni di violenza nei loro confronti, e devo dire violenza per quanto riguarda la linea 1996, soprattutto di tipo psicologico, di rifiuti, di aggressioni verbali, mentre invece nell'altra linea, il 114, più casi di violenze che sono molte volte, in questi, come quelli che si casi sono giunti, di tipo di sfruttamento sessuale, quindi di avvicinamento ad esempio di persone che sono presenti talvolta in casa, che non sono magari i genitori, ma sono acquisiti, che molte volte possono avere avuto in qualche modo un'attenzione particolare nei confronti dei bambini che ci raccontano. Con la loro, devo dire, descrizione, che talvolta è in emergenza, abbiamo fatto degli interventi con le forze di polizia in alcuni casi, devo dire, con anche tutto quello che è stato poi dopo il procedimento che ha. Certo, perché ovviamente segnalazioni di questo tipo in qualche modo necessitano di una verifica immediata e in caso di interventi altrettanto celeri, se sono stati fatti anche in questi periodi, diciamo, di lockdown. Questo devo dire ha permesso anche situazioni, tra l'altro in zone particolarmente anche colpite dal lockdown, si sono riusciti a fare, devo dire, con una grandissima competenza sia della magistratura sia delle forze politiche. Cioè parla di province lombarde? Sì, di province lombarde, sì, del nord del nostro paese. Un problema che abbiamo avuto e che abbiamo rilevato è il tema dei bambini con problematiche di disabilità. In questo caso hanno chiamato alcune volte i genitori che hanno chiesto aiuto e sostegno per situazioni molte volte. Certo, perché non avevano più quella rete, diciamo, di associazioni o di attività esterne che sono nei casi di disabilità, diciamo, molto importanti anche per continuare a sostenere di stimoli, no, questi ragazzi. Vuol dire, dopo quei primi giorni in cui tutte le cose in qualche modo riuscivano a funzionare, dopo le cose sono entrate in uno stato di crisi, perché la tenuta di molti ragazzi, o ragazzi con problematiche dello spettro fisico, con problematiche di disturbo del comportamento, hanno determinato nelle famiglie più fragili, senza una rete di sostegno esterno, dei problemi particolarmente evidenti. Tra i tanti bambini che hanno sofferto questa emergenza, più di tutti ci sono quelli soli, non accompagnati o quelli allontanati dalle famiglie e portati nelle comunità. Bambini quindi già provati, ed è questo il pensiero dell'ulteriore trauma e della sensazione di abbandono che potessero vivere i suoi figli che ha fatto disperare per settimane una mamma che sta affrontando una complessa questione giudiziaria dopo l'allontanamento dei figli. Paure amplificate dal divieto di visita per i rischi contagio e dalla sospensione di tutte le attività giudiziarie, così si è battuta con dolore per cercare di conservare contatti anche con lettere come questa che ha condiviso con Storiacce. I miei figli sono in comunità da quasi 2 anni. Da 2 mesi non vedono i genitori, nemmeno la mamma, nemmeno all'esterno della residenza. Si avvicina la Pasqua, noi siamo cattolici, sarebbe importante per me poter fare loro gli auguri. Possiamo organizzare una videochiamata? Si avvicina poi il compleanno del più piccolo, compie 10 anni, sperando ci sia qualche condizione meno restrittiva da parte del governo e sempre cercando di tutelare la condizione anche psicologica dei minori, sarebbe possibile vedere i miei figli con tutte le precauzioni, distanza, mascherina, guanti, disinfettanti e tutto ciò che occorra? Lo spero davvero tanto e credo sia importante anche per i bambini. Firmato la loro mamma. Ora anche per la giustizia minorile stanno lentamente riprendendo tutte le normali attività, in gran parte interrotte in questi mesi, perché la giustizia si è fatta trovare impreparata a situazioni di emergenza, ammette il procuratore dei minori di Milano, Ciro Cascone, che riconosce come si siano dovute trovare soluzioni veloci a situazioni sconosciute e questo ha comportato appunto anche il divieto di visita nelle comunità. Sì, ma questo 15 anni fa, avessimo cominciato a innovare, migliorare, cambiare sistemi, che veniva segnalato che erano un po' obsoleti, vecchiotti, farraginosi, lenti, complicati, inutili, forse oggi saremmo trovati meglio, però vabbè. Questo era la situazione, quindi questa, diciamo, con questi strumenti quindi si è dovuto far fronte all'emergenza. Che cosa ha comportato? Ha comportato di fatto, come in tanti settori, un rallentamento dell'attività. In particolare non consentiva, ma come dire, una trattazione anche da remoto delle nostre attività. A noi tra le segnalazioni che ci sono arrivate c'è anche quella appunto di una nostra ascoltatrice a cui sono stati diciamo allontanati i figli, che dice che non ha avuto la possibilità di, che si è congelata diciamo tutta l'istruttoria che riguardava appunto questa vicenda, con il fatto, con la ricaduta ulteriore che lei non ha potuto più neanche diciamo avere alcuna forma di contatto, questo anche per ragioni sanitarie, con i figli che erano stati portati in una comunità, esatto, sì. Esatto. E quello è un altro settore ancora, c'è un altro campo ancora da arare, nel senso che da subito, ad esempio, giusto per entrare, abbiamo avuto purtroppo molte segnalazioni, lamentele, deglianze, le comunità in qualche modo, anche in marzo, hanno cominciato a chiudersi totalmente, perché avevano il terrore, più che il timore, di poter essere veicolo di contagio, di poter diventare focolaio infettivo. Le comunità sono un po' come le RSA, dobbiamo tutelarle, le RSA purtroppo non sono state molto tutelate, con le comunità che ho cercato. Abbiamo dato indicazioni alla buona, perché ci chiamavano per chiedere consigli più che altro, che noi possiamo dare, però le indicazioni, i consigli che sono stati dati un po' dappertutto, su tutto il territorio nazionale, era di limitare gli incontri con l'esterno, nel senso che, come sa, certo, in comunità spesso escono, il fine settimana escono, oppure i genitori, i parenti vanno a fare visita dentro, a un certo punto c'è stato un lockdown totale anche loro, perché avevano proprio questo terrore. Quindi sono state indicazioni diciamo ministeriali o comunque indicazioni vostre, dei magistrati, quelle indicazioni anche nostre, dei tribunali, delle procure, insomma, ci chiedevano, sotto forma di consiglio, dico, ma l'indicazione che mi do è che effettivamente fosse il caso di correre agli incontri, insomma, via Skype, consentite le più ampie telefonate, le video chiamate, però effettivamente capisco che ponete dei limiti o vietate totalmente le uscite e gli ingressi dalla comunità, e c'è una ragione. No, anche perché le dicevo, sappiamo tutti che è stata l'emergenza, perché a un certo punto il problema si è posto anche in quelle comunità, ad esempio con i minori allontanati, che, oppure gli stranieri che venivano trovati e andavano posti in comunità, i minori arrestati che venivano messi in comunità. Le comunità chiedevano che questi fossero, come dire, fossero tamponati, tra virgolette, prima di entrare, ma i tamponi qua tra marzo e aprile sono stati introvabili, assolutamente. Non è introvabile, però dicevano, beh, facciamo entrare uno, ma non sappiamo dove è stato fino a ieri questo ragazzo, se ha avuto contatti, se ci porta il virus in comunità, dopo come usciamo. Quindi, come dire, queste scelte dettate anche dall'emergenza, improvvisate, alla lunga erano un po' necessitate dalla situazione. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra, con la regia di Andrea Roccavella. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o seguiteci su Twitter all'account Raff Calandra e su Instagram.